stata questa la settimana dove in America si è festeggiata la festa del ringraziamento ed è una bellissima festa e quindi noi vogliamo far nostra questa festa, quindi prenditi tempo per essere grato e ringrazia. La gratitudine dà vittoria, la gratitudine ti porta a vivere benessere, l'abbiamo visto la scorsa settimana, abbiamo parlato del benessere costante. Io questa mattina voglio continuare a parlare di benessere perché Dio è un Dio buono e il nostro Dio è un Padre buono che vuole il benessere per la nostra vita. Lui vuole farti vivere nel benessere. Lui non rimanda il benessere a quando staremo solo con Lui. Lui vuole che noi viviamo e assaporiamo quel benessere che ci promette per l'eternità, già in questa terra, già nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità. Lui vuole che tu stia bene, che tu abbia un benessere e un benessere costante. Questo abbiamo visto la scorsa settimana, un benessere che non è circostanziale, che non dipende dalla stagione, ma è un benessere che c'è quando tutto va bene ed è un benessere che rimane lì perché Dio rimane stabile, la sua roccia è ciò a cui noi mettiamo fondamento e Lui ci promette di farci essere come un albero che rimane verde e porta frutto anche nell'anno di siccità. Anche quando viene la stagione difficile, Lui vuole che tu porti frutto e che tu rimanga verdeggiante. Il suo benessere per te non dipende dalle circostanze, non dipende dalla stagione, non dipende da chi ti circonda, non dipende da quanto le cose filano liscio attorno a te, ma è un benessere che parte dal tuo cuore. Amen. Quanti sanno che questo benessere è vero, è reale? È vero, l'hai vissuto. E questa è la più grande testimonianza che noi abbiamo da offrire al mondo. Perché quando il mondo che ci circonda, che è un mondo che vive nel malessere, che è un mondo malato, che è un mondo che dipende dalle circostanze, ma quando il mondo che è intorno a noi, la società che è intorno a noi, vede noi stare bene, rimanere saldi, fermi, anche quando nelle nostre vite c'è malattia, anche quando nelle nostre vite c'è la stagione difficile, anche quando nelle nostre vite le situazioni sono avverse, beh, lì cominciano a chiedersi: ma tu che hai di speciale? Ma che c'è in te che ti rende stabile in ogni stagione? Questa è la più grande testimonianza del credente. Non che tutto fili liscio e che la stagione sia sempre bella, ma che in ogni stagione noi continuiamo a portare frutto e a rimanere verdi. Amen. Abbiamo visto la scorsa settimana la storia meravigliosa di Daniele. Daniele è un esempio di un sempreverde. Daniele è un esempio di una persona che riesce a rimanere verdeggiante e a portare frutto nonostante sia tradito, abbandonato, minacciato, giustiziato. Daniele rimane integro a Dio e il suo benessere certamente non è circostanziale, è un benessere che trova in Dio e questo è l'esempio che noi vogliamo. Tante persone cercano benessere cambiando le circostanze attorno a sé e rincorrono nella propria vita delle condizioni migliori e cercano di cambiare le circostanze attorno a sé perché si illudono di pensare che quando avrò quello che ancora non ho, starò veramente bene. E questa è la bugia del diavolo. Vi ricordate nell'Eden? È esattamente quello che il diavolo ha insinuato ad Adamo ed Eva. E ha proposto a loro che c'era qualcosa che li poteva fare star meglio di come già stavano. E loro hanno accettato quella bugia. E hanno creduto realmente che avrebbero potuto ottenere qualcosa di buono disubbidendo a Dio, andando in contrasto a colui che invece vuole il meglio per loro e per noi da sempre, e quindi facendo quello che il maligno ha suggerito loro di fare, si sono ritrovati a vivere vero malessere e disperazione e abbandono e separazione e vergogna e timore e tutte le paure e tutto il mondo che ci circonda vive e giace sotto questa condizione che è determinata da una bugia. Quando noi accettiamo le bugie del diavolo, cominciamo a vivere malessere. Nel momento in cui facciamo nostre le verità di Dio, allora abbiamo benessere. Non devi cambiare casa per stare bene, non devi avere un'altra macchina per stare bene, non devi avere un altro marito, un'altra moglie per stare bene, non devi ammazzare tuo figlio adolescente per stare bene, non devi cambiare lavoro per stare bene, non devi cambiare città e andare in un'altra nazione per stare bene. Dovunque ti trovi tu puoi avere benessere se hai l'unica cosa importante, Dio e la sua verità. Amen. Io oggi voglio parlarvi di un benessere che è il benessere mentale, il benessere nei pensieri. Quando leggiamo la storia di Daniele, noi leggiamo quelle che sono state le sue azioni. Noi leggiamo che ha agito bene, ha agito in una maniera straordinaria, no? Siamo rimasti tutti un po' sorpresi del fatto che lui, nel momento dove meno aveva di che ringraziare, ha fatto suo il ringraziamento. Nel momento in cui aveva di che nascondersi, ha aperto le finestre. Nel momento in cui aveva da temere per la sua vita, invece è stato sicuro, eppure essendo a Babilonia, era orientato a Gerusalemme. Noi dobbiamo comprendere però che le azioni straordinarie di Daniele sono il frutto di pensieri che Daniele coltivava nella sua mente. Noi questi pensieri non li conosciamo. Noi non leggiamo nella Bibbia che cosa Daniele ha pensato, ma è sicuro ed è certo che le azioni di Daniele, così sagge e buone, che hanno portato a lui benessere e gloria a Dio e oggi sono una testimonianza per noi, quelle azioni derivavano da pensieri, perché i pensieri sì sono invisibili, ma quello che producono è qualcosa di visibile. È sempre così e io vorrei che noi considerassimo che tutti i pensieri che ci sono nella nostra mente sono qualcosa di invisibile, ma quello che producono nella nostra vita è qualcosa che si manifesta nel visibile. Addirittura sono gli scienziati e i medici ad affermare che determinati pensieri e determinate cose che avvengono nella mente producono anche un malessere fisico. Quindi tu puoi stare male fisicamente, male nelle relazioni, male nelle tue giornate e tutto questo non dipende da chi ti circonda, dipende da quello che pensi. Tante persone vogliono stare bene cercando di cambiare gli altri e tante persone vivono nel vittimismo, credendo che la fonte dei loro mali siano tutte le persone che in una qualche maniera si sono complottate contro di loro. E quindi cambiano costantemente circostanze, contesti anche sociali. Perché? Perché non hanno la forza di ammettere che il malessere che vivono non dipende dalle persone che frequentano, ma è un malessere interiore che devono risolvere in loro. Il Signore ci ama a tal punto da farci comprendere che tutto ha un'origine e l'origine è il nostro cuore o la nostra mente, ciò che è invisibile. La nostra mente è come un complesso sistema idrico e fognario. Avete presente il sistema idrico e fognario che è nascosto nelle nostre case, no? Che ci sono tubature e ci sono intrecci ed è tutto nascosto. E tutto va bene fin quando tutto funziona bene, è vero? Questo sistema idrico e fognario è intrecciato non solo all'interno delle pareti e nei pavimenti delle nostre abitazioni, ma si intreccia anche con il sistema fognario più allargato, il sistema idrico che ha una fonte, ha un'origine a livello cittadino e regionale, addirittura nazionale, e tutto questo intreccio è invisibile. Ma quando qualcosa non funziona, allora tutto comincia a rendersi reale, no? Quando le tubature si cominciano ad otturare, allora ti rendi conto che quel sistema c'è e non sta funzionando bene. Quando piuttosto che avere una fonte di acqua pulita e una fonte di acqua sporca, lì comincia a vivere il disagio. E quando il sistema fognario e il sistema idrico non è ben separato, La nostra casa non è più un luogo sicuro, non è più accogliente. E siamo tutti d'accordo. Lì c'è puzza, lì c'è sporcizia. Nessuno di noi vorrebbe che la fonte sia sostituita da quello che può essere il bacino. Nessuno di noi vuole che, piuttosto che uscire fuori determinate cose ed essere scartate, vengano accumulate o vengono assorbite. Ora io voglio leggervi un verso che è molto famoso, ma che ci parla proprio dell'importanza di avere una mente ben curata che produce un benessere di vita sano, ed è Romani 12:2, dove c'è scritto: non conformatevi a questo mondo, la fogna, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Acquedotto. Non dobbiamo mai scambiare la fogna con l'acquedotto. Il Signore vuole che noi manteniamo ben distinti i sistemi idrici da quelli fognari, ed è così che noi dobbiamo curare la nostra mente. I nostri pensieri, fratelli e sorelle, vanno vagliati, vanno selezionati. I nostri pensieri vanno interrogati. Dobbiamo fermarci e interrogare i nostri pensieri. I nostri pensieri devono essere sostituiti a volte. Vanno rimodellati, vanno scartati. Noi dobbiamo far funzionare la nostra mente, e se c'è qualcosa che io spero rimanga di questo messaggio questa mattina nei vostri cuori, è che per avere un benessere nella vostra vita voi dovete avere cura della vostra mente. Se vuoi avere benessere nella tua vita, devi essere intenzionale nel curare la tua mente. L'intenzionalità è ciò che ci invita a fare questo verso. E questo verso te lo posso leggere, che tu lo ascolti ora per la prima volta, ma te lo posso leggere con enfasi, anche se questo verso lo conosci a memoria e l'hai letto decine di migliaia di volte, perché è un verso che si rinnova, è un verso che è sempre vero, è un verso che deve essere sempre valido, è un verso che ci dobbiamo ricordare giornalmente. Non conformarti a questo mondo, ma sii trasformato. E sai come puoi essere trasformato? Sai come puoi essere un Daniele? Mediante il rinnovamento della tua mente. Sapete qual è la cosa grandiosa di questo verso? È che ci rivela che noi non dobbiamo essere succubi e non dobbiamo vivere passivamente quello che passa nella nostra mente. Perché se la parola di Dio ci dice rinnova la tua mente, quello è questo quello che sta facendo, tu, buona notizia, puoi rinnovare la mente. Io posso rinnovare la mia mente. Che meravigliosa promessa che Dio ci dà, di non vivere più succubi. Vi siete mai sentiti completamente avvolti dai pensieri? Completamente inghiottiti da pensieri, incatenati da pensieri. Se c'è una bugia che il diavolo vuole insinuare nella tua vita, è che non c'è via d'uscita a questa condizione. E quello che io voglio dirti, la verità che voglio urlare nella tua vita questa mattina, è che tu puoi essere libero. E tu puoi avere un rinnovamento della tua mente. Se il sistema fognario e il sistema idrico sono intrecciati, arrugginiti, vecchi, costruiti male, tu puoi rinnovare tutto questo. Ed è una tua scelta ed è una mia scelta. È una scelta di non essere passivi, ma una scelta di essere attivi. E se non lo siamo noi, fratelli e sorelle, è molto importante questo. Se non sei tu attivo, sappi che qualcun altro lo sarà. E non è uno che ti vuole bene, è il diavolo. Lui vuole il male. E lui è attivo. Ve lo voglio dimostrare. In 2 Corinzi, al capitolo 4, versetto 4, c'è scritto questo: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali, ascoltate ora, il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Nei non credenti, il diavolo, Dio di questo mondo, ha il potere e sta mantenendo questa autorità di accecare le menti. Sono menti accecate, sono menti che non vedono, sono menti che non hanno rivelazione, sono menti imprigionate, sono menti chiuse, sono menti incapaci di cogliere la bellezza della vita che c'è nell'Evangelo di Cristo Gesù. Però c'è un altro verso, nella stessa lettera, 2 Corinzi, capitolo 11, versetto 3, che dice: ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate. L'apostolo Paolo qui ha timore per la Chiesa, per i credenti. E noi dobbiamo comprendere che c'è qualcuno che è attivo e non rimane fermo nel momento in cui tu credi, hai rivelazione della verità, conosci Cristo Gesù, conosci la sua parola. Lui non si accontenta del fatto che oramai tu ti sei battezzato, sei morto e sei risorto in Cristo Gesù, hai scelto per lui. No, lui cercherà comunque sempre una strada. Lui è il serpente seduttore. Lui cercherà il modo, il cavillo. Lui cercherà la giusta esca per farti cadere nella stessa trappola di sempre. La bugia, che cosa comporta nella vita dei credenti? Corruzione ed essere sviati. Il diavolo vuole corrompere i tuoi pensieri. Lui vuole sviare i tuoi pensieri. E io te lo dico questa mattina non per darti una cattiva notizia o metterti in una condizione di timore. No, io ti ricordo che in Cristo Gesù tu hai la vittoria e hai il rinnovamento della mente. Io te lo dico per incoraggiarti ad essere intenzionale con quello che pensi. Intenzionale nell'avere un benessere mentale. Forse a questo punto ti stai domandando come. Come si fa? Come si cambiano pensieri? Beh, una risposta te l'ho già data ed è quella sicuramente più importante che ci viene rivelata in Romani 12. Non confondere la fonte con il bacino fognario. Attingi dalla giusta fonte. Di cosa ti stai cibando? Cosa stai cibando la tua mente? Perché siamo così insistenti e addirittura abbiamo un piano di lettura quotidiano al quale vogliamo coinvolgere tutta l'intera Chiesa, perché la parola di Dio è la giusta fonte. Gesù ha detto: sarete veramente miei discepoli se perseverate nelle mie parole, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è un motto, questo è un motto che piace al mondo. Addirittura ci sono compagnie, aziende, spot pubblicitari che promuovono, no? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Omettono quello che viene prima. E ciò che viene prima è molto più importante. È Gesù che dice: se vuoi essere veramente un mio discepolo, persevera nelle mie parole, con le mie parole conoscerai la verità e quella verità ti renderà libera. Qual è la fonte? Le parole di Gesù. A cosa stai credendo? Quali pensieri stai accogliendo? Bugie del diavolo? insinuazioni del serpente, la sua seduzione o le verità di Dio? Sapete, quando cadiamo nel peccato, lo facciamo perché stiamo sempre, sempre, sempre credendo ad una bugia. Se cadiamo nel peccato è solo perché abbiamo una cattiva fonte e stiamo credendo ad una bugia distruttiva che il diavolo ha astutamente messo nella nostra mente per derubarci del vero benessere di vita piena che Dio ha per noi. Sostituisci la fonte al bacino se è necessario. Scegli di attingere all'acquedotto. Amen. Come faccio a cambiare pensieri? Sapete, molto spesso quando condividiamo un messaggio da questo pulpito, credo di poter parlare per tutti coloro che portano un messaggio, è frutto di un'esperienza, è frutto di una situazione, di una circostanza, è frutto proprio anche di quello che stai vivendo in quel periodo. E questa domanda, io so che voi ve la state facendo, io me la sono fatta e la continuo a fare tante volte, e ho alle spalle una settimana dove mi chiedevo e chiedevo a Dio: come si cambiano questi pensieri? Come faccio a pensare qualcosa di diverso rispetto a queste cose che non mi fanno bene? Come si fa? Come si spegne la mente? Dov'è il tasto? Se c'è un telecomando, perché non è facile trovare quel tasto rosso che di solito nei telecomandi è così in evidenza ed è sopra tutti gli altri tasti? Dio, dov'è? Dov'è il tasto che spegne la mia mente? Quanti vorrebbero spegnere la propria mente? Quanti vorrebbero spegnerla quando hai avuto già una giornata così difficile, lunga, impegnativa e finalmente hai la grazia di poter posare la tua testa pesante su quel cuscino e immergerti nella bellezza del piumone che tua moglie ha lavato e che profuma, e vorresti spegnere la mente e addormentarti, ma non ci riesci. Molti hanno la grazia di appoggiare la loro testa sul cuscino e quello è il loro tasto. Beati voi. Mia moglie è così. Beati voi. Avete una grazia. Per me non è così. E a volte proprio quando mi sto per impegnare ad addormentare, la mia mente decide di accendersi più che mai e di dirmi: Mirko, è tempo di farti un paio di ore di insonnia e di rimanere attivo con pensieri catastrofici, pesanti, di ansia, che prospettano il peggio del tuo futuro, prospettano la rovina tutta attorno a te, che ti fanno sentire una catastrofe. Capita solo a me? Come si spegne? Non si spegne. Non si spegne, ma abbiamo una possibilità. Noi abbiamo una possibilità, non quella di spegnere e smettere di pensare, ma abbiamo la possibilità di riorientare i nostri pensieri. Vi leggo questo verso, sempre l'Apostolo Paolo. Quante deve averne vissute questo apostolo? E ne ha vissute. Io so che in carcere molto probabilmente si è ritrovato a non prendere sonno per i tanti pensieri. Però dice questo, ed è Dio che ci parla e ci dice: ora fratelli, mentre concludo questa lettera, voglio dirvi ancora una cosa. Quanti sanno che le ultime cose che lasci sono spesso le cose più importanti? Vuoi lasciare proprio il segno, no? Anche in un messaggio, quando si condivide qui, la parte finale, quella che poi deve portare a una scelta, no? E quindi l'Apostolo Paolo sta concludendo questa lettera e dice: voglio dirvi ancora una cosa. Indirizzate i vostri pensieri su tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode. Amen. Dio ti invita a riorientare i tuoi pensieri. Non puoi fermare la tua mente, ma puoi decidere cosa pensare. Puoi decidere quale sarà, un'altra versione dice, l'oggetto dei tuoi pensieri. In cosa, a cosa ti concentrerai? Alle bugie, alle paure, alle ansie, alla visione catastrofica che il maligno ha da offrirti, alle sue tentazioni, oppure alle verità di Dio, alle promesse, se non le ricordi, le cerchi, e quindi se non riesci a dormire puoi aprire la tua Bibbia e aprire il tuo cellulare e scegliere una promessa di Dio e in quella promessa riorientare i tuoi pensieri. Forse non ti addormenterai subito, ma stai riprendendo ciò che ti appartiene, la tua mente, il controllo dei tuoi pensieri e le promesse che Dio ha per te, e avrai benessere mentale, e quel benessere mentale produrrà trasformazione nelle tue azioni, e il giorno dopo ti sveglierai non ricordando tutte le ansie che il diavolo ha voluto mettere in te per farti vivere una pessima giornata, ma ti alzerai e ti sveglierai ricordandoti quello che il Signore ti ha ricordato, una sua promessa, una sua benedizione, una sua verità, e quella giornata sarà diversa da come il diavolo aveva previsto che fosse. Fondamentalmente, se vuoi benessere mentale, devi imparare a cambiare canale. Fa pure rima, non c'è un tasto di spegnimento per la nostra mente, ma c'è un tasto che cambia il canale. E quando tu guardi la televisione, non so se capita a te, e ti ritrovi davanti a una trasmissione che ti porta rabbia, che ti porta disagio, che ti porta disgusto, in quel momento il telecomando è tuo e puoi cambiare canale. In quel momento, se lo fai, benedici te stesso. Lo stesso vale nella tua mente. Puoi cambiare canale. Pensa alle cose vere, pensa alle cose nobili, pensa alle cose giuste, pensa alle cose pure, pensa alle cose amabili, pensa alle cose onorabili, pensa a tutte quelle cose che meritano lode. Pensale per la tua famiglia, pensale per te stesse, per te stesso, pensale per la Chiesa, pensale per il tuo futuro, pensale per i tuoi nemici, pensale per ogni cosa. Attira i pensieri positivi che Dio ha per te. Voglio concludere con un altro aspetto che ci può permettere di vincere in questa battaglia. Se il primo è cambiare canale, il secondo è imparare l'arte di modellare la nostra mente. A volte è un esercizio, non a volte, è un esercizio che richiede tempo. Io lo so che a noi piacciono tutte le cose immediate, no? Noi viviamo nella società del microonde. Non ci piace mettere il forno che deve riscaldarsi e poi la pietanza dentro e devi aspettare mezz'ora. No, a noi piace il microonde, tu metti lì e istantaneamente, in pochi secondi, il tutto si è riscaldato. Però non è così con la nostra mente. La nostra mente è stata soggetta probabilmente per anni a dei pensieri, a delle bugie, esposta a cose che ci hanno detto, cose che ci hanno voluto far credere, a un'educazione, a una cultura. E sarebbe bello poter dire, una volta che ti battezzi e esci fuori da questa vasca, tutti i tuoi pensieri sono rinnovati, tutta la tua vita istantaneamente cambiata, e niente delle cose passate può avere più influenza nella tua vita. Non è così. E non c'è scritto nella parola di Dio. Per questo è sempre vero Romani 12. Siate trasformati, ed è un continuo percorso di trasformazione che dipende da un continuo rinnovamento della mente. Quindi come possiamo esercitare la nostra mente? ad essere allineata a quella buona, gradita, perfetta volontà di Dio? Beh, con un esercizio lento e costante. E voglio prendere un aspetto che ci dice la parola di Dio di fare, che troppo poche volte viene nominato e forse poco spesso viviamo, ed è la meditazione. Qualcuno mi sta guardando storto, dice: è cambiato religione, pastore. Attenzione, non la meditazione orientale svuota la tua mente, svuota il, non lo so, cos'è il chakra che si svuota, non so che cosa si fa, no, ritrova il tuo equilibrio, no, meditazione che riempie la mente, che non la svuota, meditazione che non annulla i pensieri, li sostituisce. Meditazione che rinnova quei sistemi mentali che da anni si sono innescati nella nostra vita e oramai sono istintivi dentro di noi. La meditazione, ciò che la parola di Dio invita a fare, l'uomo che vuole essere benedetto. Salmo 1 dice queste bellissime parole, me lo proiettate perché non ce l'ho. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori. E qua possiamo trovare un'altra fogna, chi frequenti, chi ascolti, e oramai non devi neanche frequentare più fisicamente determinate persone per avere i loro pensieri e per essere seduti con loro e per fermarti nella loro via, basta una qualsiasi applicazione social. E ti puoi ritrovare con delle persone che vivono immerse, incatenate in peccati e dominati da demoni che ti stanno propinando una vita bella e ti stanno mostrando un corpo denudato, ti stanno mostrando qualche cosa che ti sta per sedurre e sta per corrompere i tuoi pensieri. Però poi aggiunge, dice: e si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Diletto, l'amore, è nella legge del Signore. Se siamo qui perché amiamo la parola di Dio, e io voglio ringraziarti perché sei qui, perché domenica dopo domenica scegli di riascoltare e di rimeditare e di assorbire la parola di Dio. Questo è quello che stiamo facendo. Il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge, ascoltate, dice: medita giorno e notte. E pensando alla mia settimana, leggendo Salmo 1, mi sono rincuorato. Ho detto: evidentemente anche Davide aveva il mio stesso problema. Non è come mia moglie che poggiava la sua testa sul cuscino e si addormentava. Medita, dice il salmista. Dio ti invita a meditare la parola di Dio. Non a leggerla con quella fretta che abbiamo e l'ansia di sapere che il pastore ha un capitolo al giorno da farci leggere. E quel capitolo va letto, e quindi leggiamolo per spuntare la casella e dire: fatto. Anche se lo fai così, fai bene. Io sono orgoglioso di te. Dio ha piacere in te. Però c'è un livello superiore che ci permette di rimodellare la nostra mente, ed è meditare la parola di Dio. Vi voglio dare una definizione di meditazione da parte di uno studioso, un insegnante biblico, Donald Whitney, e concludere con questo. Lui dice: la meditazione è una riflessione profonda sulle verità e realtà spirituali rivelate nelle scritture, ai fini della comprensione, dell'applicazione e della preghiera. Non è meraviglioso? Posso rileggervelo perché è stupendo. Dice: la meditazione è la riflessione profonda sulle verità e realtà spirituale rivelate nelle scritture, scritture ai fini della comprensione, dell'applicazione e della preghiera. Stasera, se non riesci a dormire per i pensieri, apri la tua Bibbia e leggi, rileggi, medita. Non affrettarti a una successione di versi. Medita su un singolo verso, uno tra quelli che ho citato oggi, magari, del Salmo 1, oppure Romani 12. Rifletti profondamente ai fini dell'applicazione, ai fini della comprensione, ai fini della preghiera, e poi comprendi come puoi applicare quel verso nella tua vita. Prega su quel verso nella tua vita, medita, macina, memorizza, fai tuo, e così modellerai la tua mente, e la tua mente rinnovata ti porterà a vivere una vita trasformata. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Che bello stare alla presenza di Dio. Che bello, Padre, stare alla presenza della Chiesa. Che bello stare qui insieme, sentirci uniti e riconoscere insieme che c'è un nemico che vuole il peggio per noi, e lottare gli uni a favore degli altri affinché non abbia la meglio. Noi ti siamo grati, Padre, per quello che hai voluto dirci oggi, quello che hai voluto rivelarci oggi. E io voglio pregare per menti che siano stabili, che siano equilibrate, che siano capaci di mettere a tacere stati d'animo ed emozioni ed istinti carnali e percorsi distruttivi che magari finora sono stati presenti nelle nostre vite. Noi dichiariamo vittoria su tutto questo nel nome di Gesù e accogliamo i tuoi pensieri, Padre. Ricordaci questa parola e dai ristoro alle menti di coloro che questa mattina sono particolarmente affannati, preoccupati, pieni di paura o di ansie. Noi preghiamo, Padre, che l'applicazione della tua parola possa trasformare ciascuno di noi e farci conquistare ogni territorio che tu hai stabilito per noi. Grazie, Padre. Amen. Amen. Vogliamo adorare ancora il Signore insieme.